Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Gay e masturbazione, tra peccato e normalità. Questo approfondimento è dedicato ad un confronto tra le posizioni della Chiesa Cattolica concernenti la masturbazione e quelli dell'Organizzazione Mondiale di Sanità sullo stesso tema. Il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce la masturbazione come eccitazione volontaria degli organi genitali al fine di trarne un piacere venereo. L'uso dell'aggettivo venereo, ormai desueto nel linguaggio comune e perfino nella terminologia medica, dove l'espressione malattie venere è stata sostituita dalla più corretta espressione malattie sessualmente trasmesse, rimanda a Tommaso d'Aquino, che nella Summa Teologica, nella parte dedicata alla lussuria, usa frequentemente espressioni che si riferiscono al piacere venereo, come ad esempio delectationes venere o voluptates venere. Il Catechismo si limita ad un mero richiamo alla dichiarazione persona umana della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede della fine del 1975, che però tratta l'argomento in modo assai articolato. Il punto 9 della dichiarazione persona umana concernente la masturbazione è uno degli esempi più tipici della dimensione dogmatica e quindi totalmente autoreferenziale della morale cattolica. La dichiarazione persona umana affronta l'argomento masturbazione ricordando che spesso, oggi, si mette in dubbio o si nega espressamente la dottrina tradizionale cattolica secondo la quale la masturbazione costituisce un grave disordine morale. La psicologia e la sociologia, si dice, dimostrano che, soprattutto tra gli adolescenti, essa è un fenomeno normale dell'evoluzione della sessualità. Attenzione bene, lo ribadisco, il documento usa l'espressione impersonale «si dice», cioè secondo qualcuno, che la Chiesa considera evidentemente in errore, la psicologia e la sociologia moderna dimostrerebbero che, soprattutto tra gli adolescenti, la masturbazione è un fenomeno normale dell'evoluzione della sessualità. Ma a queste teorie psicologiche o sociologiche la Chiesa oppone la propria autorità, affermando che sempre secondo quel qualcuno che evidentemente secondo la Chiesa interpreta male la psicologia e la sociologia moderna, nella masturbazione non ci sarebbe colpa reale e grave se non nella misura in cui il soggetto cedesse deliberatamente ad una autosoddisfazione chiusa in se stessa, detta ipsazione, perché in tal caso l'atto sarebbe radicalmente contrario a quella comunione amorosa tra persone di diverso sesso, che secondo certuni sarebbe quel che principalmente si cerca nell'uso della facoltà sessuale. Al di là del fatto che il testo parla espressamente di persone di diverso sesso, si introduce una distinzione nell'ambito della masturbazione tra masturbazione eterosessuale, affettiva, centrata su una persona dell'altro sesso, e ipsazione, cioè masturbazione non affettiva. Ovviamente la masturbazione con fantasie omosessuali è automaticamente sempre classificata come ipsazione. Il termine ipsazione, dal latino ipse, io stesso, era stato coniato da Magnus Hirschfeld ed era usato nel questionario psicobiologico che doveva essere compilato dai pazienti dell'Istituto di Scienze Sessuali fondato a Berlino dallo stesso Hirschfeld nel 1919. La domanda 35 del questionario era la seguente: vi lasciate mai andare all'ipsazione, ovvero alla soddisfazione raggiunta per mezzo dell'onanismo? Quando avete cominciato a masturbarvi? Come mai avete contratto questa abitudine? Vi siete stati spinti da persone della vostra età o di età differente? Da persone del vostro medesimo sesso o di sesso differente? Fino a quale età, con quali intervalli, con quali rappresentazioni mentali, oggi diremo fantasie, e in che modo vi siete masturbati? Se siete una donna, per mezzo di carezze esterne o tramite l'introduzione nel vostro corpo di oggetti estranei? Avete mai lottato contro tale tendenza? Se sì, con quali mezzi, voti, preghiere, eccetera? Il documento Persona Umana usa il termine ipsazione per indicare una autosoddisfazione chiusa in se stessa che, secondo alcuni, sarebbe la vera ragione della immoralità di questo solo tipo di masturbazione. Come ovvio, la dichiarazione non considera nessun argomento di carattere psicosessuale e si limita a giudicare moralmente irrilevante la distinzione tra masturbazione eterosessuale affettiva, che implica una dimensione almeno proiettiva di coppia e di coppia eterosessuale, ed ipsazione, cioè masturbazione non affettiva. Sottolineo che la masturbazione omosessuale è considerata comunque non affettiva per il fatto stesso di essere centrata su persone dello stesso sesso. Ammesso e non concesso che esista una linea di demarcazione tra masturbazione affettiva e ipsazione, mi domando come si possa ridurre a una questione del genere il problema della moralità o meno della masturbazione, che è una cosa seria e con implicazioni enormi. Il documento sottolinea che la masturbazione è comunque sempre condannata dalla Chiesa per costante tradizione e che qualunque sia la motivazione che induce taluni all'indulgenza verso la masturbazione affettiva, questa opinione, dice il testo, è contraria alla dottrina e alla pratica pastorale della Chiesa Cattolica. Quale che sia il valore di certi argomenti di ordine biologico o filosofico di cui talvolta si sono serviti i teologi, di fatto, sia il magistero della Chiesa, nella linea della tradizione costante, sia il senso morale dei fedeli, hanno affermato senza esitazione che la masturbazione è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato. Il documento specifica poi le motivazioni di questo giudizio. La ragione principale è che, qualunque ne sia il motivo, l'uso deliberato della facoltà sessuale al di fuori dei rapporti coniugali normali contraddice essenzialmente la sua finalità. A tale uso manca infatti la relazione sessuale richiesta dall'ordine morale, quella che realizza in un contesto di vero amore l'integro senso della mutua donazione e della procreazione umana. Soltanto a questa relazione regolare deve essere riservato ogni esercizio deliberato della sessualità. Qualunque sia il valore degli argomenti in contrario, la condanna trova quindi la sua motivazione indefettibile nel magistero e nella tradizione, che legittima l'uso della facoltà sessuale esclusivamente nei rapporti coniugali normali. È evidente che la Chiesa identifica la natura umana con la propria visione della natura umana. L'approccio è quindi antropologico-ontologico e finalistico, nel senso che tende a definire la natura umana e ad attribuire alle facoltà umane dei compiti che sarebbero per natura gli unici leciti. Questa non è antropologia scientifica, ma teologia, per la quale il dato rivelato o quello dedotto dalla Sacra Scrittura viene elevato a dimensione di antropologia assoluta. L'antropologia scientifica è una cosa del tutto diversa, è antropologia culturale ed è per sua natura relativistica. Studia con metodo scientifico non l'uomo in sé, ma le culture umane reali, senza cercare forzatamente alcun denominatore comune. È ovvio che la visione della sessualità proposta dalla Chiesa Cattolica, secondo l'antropologia culturale, non è l'espressione della natura umana in quanto tale, ma è semplicemente un prodotto culturale elaborato nel corso della storia e proprio una specifica cultura. È naturale quindi che la Chiesa non ami il relativismo, che è una delle grandi conquiste dell'epoca moderna. Molto interessante la valutazione del significato delle indagini sociologiche sul tema della masturbazione, così come prospettato dal documento della Congregazione. Le inchieste sociologiche possono indicare la frequenza di questo disordine secondo i luoghi, le popolazioni e le circostanze prese in considerazione. Si rilevano così dei fatti, ma i fatti non costituiscono un criterio che permette di giudicare del valore morale degli atti umani. La Congregazione non fa che parafrasare un documento di Papa Paolo VI, che così si esprime: se le inchieste sociologiche ci sono utili per meglio conoscere la mentalità dell'ambiente, le preoccupazioni e le necessità di coloro ai quali annunciamo la parola di Dio, come pure le resistenze che le oppone l'umana ragione nell'età moderna, con l'idea largamente diffusa che non esisterebbe fuori della scienza alcuna forma legittima di sapere, le conclusioni di tali inchieste non potrebbero costituire di per sé stesse un criterio determinante di verità. La Congregazione si spinge all'individuazione delle cause della frequenza della masturbazione e così si esprime. La frequenza del fenomeno in questione è certo da mettere in rapporto all'innata debolezza dell'uomo in conseguenza del peccato originale, ma anche alla perdita del senso di Dio, alla depravazione dei costumi generata dalla commercializzazione del vizio, alla sfrenata licenza di tanti spettacoli e pubblicazioni, come anche l'oblio del pudore custode della castità. Quindi il documento cita di nuovo la psicologia moderna, anche se non è ben chiaro a che cosa si riferisca in concreto. La psicologia moderna offre, dice, in materia di masturbazione, parecchi dati validi e utili per formulare un giudizio più equo sulla responsabilità morale e per orientare l'azione pastorale. Essa aiuta a rivedere come l'immaturità adolescenziale, che può talvolta prolungarsi oltre questa età, lo squilibrio psichico o l'abitudine contratta, possano influire sul comportamento, attenuando il carattere deliberato dell'atto e facendo quindi sì che soggettivamente non ci sia sempre colpa grave. Tuttavia, in genere, l'assenza di grave responsabilità non deve essere presunta. Ciò significherebbe misconoscere le capacità morali delle persone. Ne consegue che si tratta di colpa sempre grave oggettivamente, ma non sempre soggettivamente, e che la psicologia moderna aiuta nel discernere caso da caso. Evidentemente la psicologia moderna è considerata legittima solo in quanto strumentale e conciliabile con la morale cattolica. La congregazione fornisce poi altri criteri che vanno oltre la psicologia moderna. Così si esprime: nel ministero pastorale, per formarsi un giudizio adeguato nei casi concreti, sarà preso in considerazione nella sua totalità il comportamento abituale delle persone, non soltanto per ciò che riguarda la pratica della carità e della giustizia, ma anche circa la preoccupazione di osservare il precetto particolare della castità. Si vedrà specialmente se si fa ricorso ai mezzi necessari, naturali e soprannaturali, che l'ascesi cristiana nella sua esperienza di sempre raccomanda per dominare le passioni e fare progredire la virtù. Detto questo, passiamo ora a vedere quello che dice veramente la psicologia moderna in tema di masturbazione. Quanto esporrò è contenuto in uno studio aggiornato che potete leggere integralmente in inglese sul sito dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, intitolato Sexual Health for the Millennium, a Declaration and Technical Document, una pubblicazione della World Association of Sexual Health. Il brano è tolto dal capitolo 8, intitolato Achieve Recognition of Sexual Pleasure as a Component of Well-Being, ossia raggiungere il riconoscimento del piacere sessuale come componente del benessere. Così dunque si esprime l'Organizzazione Mondiale di Sanità. Durante gran parte della storia umana, l'amore appassionato e il desiderio sessuale sono stati visti come pericolosi, come una minaccia per l'ordine sociale, politico e religioso. Durante il periodo storico attuale, la religione e la medicina hanno avuto influenze potenti sulle norme sociali per la salute sessuale e il comportamento sessuale, e per alcuni aspetti importanti queste istituzioni hanno ereditato e continuato la tradizione di considerare il desiderio sessuale e per estensione il piacere con vari gradi di sospetto. Non è possibile fare generalizzazioni sulla misura in cui le grandi religioni hanno seguito prospettive o sesso negative o sesso positive verso il piacere e la sessualità. Tuttavia si può dire che in vari periodi storici molte religioni, compreso il cristianesimo e l'islam, si sono concentrate sugli aspetti riproduttivi e sulle funzioni della sessualità. Di conseguenza, esse hanno perseguito forme di controllo severo sui comportamenti sessuali, in particolare al di fuori del matrimonio tra un uomo e una donna, e sui comportamenti che non portano alla riproduzione, per esempio la masturbazione, e hanno visto il piacere sessuale, in particolare quello delle donne e degli omosessuali, sia uomini che donne, con disprezzo. Numerosi studi hanno documentato il disprezzo per il piacere sessuale espresso dai teologi cristiani e dalle istituzioni cristiane per gran parte della storia della Chiesa. La masturbazione, in particolare, è stata un argomento controverso proprio perché il suo scopo primario è quello di produrre piacere. La ricerca sulla masturbazione ha indicato che, contrariamente alle credenze tradizionali, la masturbazione è un comportamento sessuale comune, collegato a indicatori di salute sessuale. Anche se non ci sono indicazioni negative per la salute associate con la masturbazione, essa è in grado di generare emozioni fortemente negative, oltre che positive, per molti individui a seconda della interazione tra gli atteggiamenti sociali prevalenti e gli atteggiamenti e i comportamenti individuali. In realtà, la ricerca ha indicato che la masturbazione inizia presto ed è una parte importante di un sano sviluppo sessuale. Spesso è addirittura un marker di sviluppo sessuale. Molti giovani conoscono il proprio corpo e fanno esperienza della loro reattività sessuale attraverso la masturbazione. La masturbazione continua anche per tutta la durata della vita. Per esempio, molti adulti continuano a masturbarsi anche se sono sposati e hanno accesso immediato al rapporto sessuale. La masturbazione può anche aiutare le persone anziane che non hanno un partner a disposizione a mantenere la funzione e l'espressione sessuale. La masturbazione è anche una sicura alternativa a comportamenti che comportino rischio di infezioni a trasmissione sessuale, compreso l'HIV. I benefici della masturbazione sono illustrati dal largo consenso che essa riceve nella terapia sessuale, come un mezzo per migliorare la salute sessuale dell'individuo e della coppia. Affrontare la masturbazione nell'ambito della programmazione e della promozione della salute sessuale può essere difficoltoso. Tuttavia, i dati disponibili indicano che la masturbazione è importante ed è necessaria anche come argomento all'interno della promozione globale della salute sessuale. Vi è la necessità di ulteriori ricerche che includano lo sviluppo di teorie e la verifica di ipotesi circa l'impatto della masturbazione sull'autostima, sull'immagine del corpo, sulla funzione sessuale, sulla soddisfazione sessuale e sull'efficacia dell'integrazione dell'educazione alla masturbazione nell'ambito dei programmi di promozione della salute sessuale. Si deve notare che vari gruppi provenienti da una varietà di fedi religiose stanno manifestando prospettive positive e progressive verso il piacere e la sessualità. Tuttavia, si deve anche riconoscere che l'eredità di una interpretazione in gran parte negativa del piacere sessuale proveniente da molte istituzioni religiose è ancora ben viva oggi e continua ad ostacolare il riconoscimento del piacere sessuale negli sforzi di promozione della salute in molte parti del mondo. In particolare, se il piacere sessuale è vissuto in un contesto contrario a particolari norme religiose di condotta sessuale. Per quanto riguarda gli sforzi internazionali volti a promuovere la salute sessuale, l'Alleanza degli Stati Uniti e del Vaticano e degli Stati conservatori, sia musulmani che cattolici, in opposizione al riconoscimento di diversi diritti sessuali, compresi quelli relativi al piacere, è la testimonianza della continua influenza delle forze religiose conservatrici nella formazione delle politiche relative alla salute sessuale. Dalla seconda metà del XIX secolo, la medicina e la scienza medica hanno, in particolare nel mondo occidentale, esercitato autorità notevole sulla sessualità. Anche qui troviamo che il piacere sessuale è stato spesso visto come patologia. Alcuni autori suggeriscono che la lunga tradizione di rappresentare la malattia come una punizione per il peccato è continuata quando il comportamento sessuale è stato medicalizzato e si è trasformato in morbilità. Per esempio, la masturbazione, il desiderio omosessuale, il palese interesse sessuale, soprattutto se espresso dalle donne, sono stati considerati fino a poco tempo fa dalla medicina come sintomatici di malattia psichiatrica o di perversione. Sebbene la medicina contemporanea e anche alcune istituzioni religiose abbiano girato l'angolo nel riconoscere gli aspetti positivi e i benefici dell'espressione sessuale, molte tracce della propensione a concentrarsi sui risultati negativi dell'espressione sessuale sono ancora ben evidenti. Il discorso pubblico di oggi circa la sessualità è quasi esclusivamente sui rischi e sui pericoli, sull'abuso, sulla dipendenza, sulla disfunzione, sulle infezioni, sulla pedofilia, sulle gravidanze adolescenziali, sulla lotta delle minoranze sessuali per i loro diritti civili considerata come un pericolo. Fin qui l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tentiamo ora di tirare le somme. Che la masturbazione sia una realtà che riguarda tendenzialmente tutti i ragazzi in età adolescenziale è un fatto risaputo e confermato da tutti i sondaggi seri effettuati in questo campo. La masturbazione in età adolescenziale è un fatto fondamentale che porta gradualmente alla coscienza del proprio orientamento sessuale, identifica gli archetipi sessuali, ossia i tipi fisici delle persone che inducono una chiara reazione sessuale in ciascuna persona, e i comportamenti sessuali che saranno ritenuti più eccitanti nel corso dell'intera vita. Crea e stabilizza l'associazione tra fantasie masturbatorie e reazioni fisiologiche di erezione e di eiaculazione. Indurre sensi di colpa legati alla masturbazione negli adolescenti tramite pregiudizi di carattere morale significa interferire pesantemente e negativamente sia nella maturazione della loro sessualità che nella formazione del loro senso morale, inducendoli a reazioni nevrotiche di rifiuto del tutto innaturale della masturbazione, alla considerazione della masturbazione come un vizio di cui bisogna cercare in ogni modo di liberarsi e alla formazione di una morale basata sulla repressione anziché sulla libertà. È un dato di fatto che la masturbazione accompagna normalmente la vita adulta, anche in presenza di un'attività sessuale di coppia, sia etero che omosessuale. E che anzi la masturbazione rappresenta in ogni caso l'espressione più libera della sessualità, meno condizionata dalle attese del partner o di altre persone. È evidente che per i gay che non vivono una stabile relazione di coppia, la masturbazione è l'unica forma di sessualità che è possibile senza rischi, e quindi reprimere la masturbazione in queste situazioni significa negare del tutto la sessualità di un individuo, cosa che è assolutamente innaturale, oltre che immorale. La masturbazione è la via normale attraverso la quale gli uomini gay o bisessuali sposati, che hanno represso la loro sessualità, divengono pienamente consapevoli della loro condizione ed è anche in molti casi per loro l'unico modo per vivere la loro vera sessualità o la componente omosessuale se sono bisessuali senza mettere in crisi la famiglia. Il peso dei tabù introdotti dalla morale cattolica e più in generale dal pensiero religioso nel corso dei secoli sui comportamenti sessuali e in primo luogo sulla masturbazione fa sì che ancora oggi molti ragazzi e molti adulti si sentano pesantemente condizionati e stentino a considerare la masturbazione una componente normale della sessualità. Va sottolineato che uno studio scientifico condotto nel 2003 da un gruppo di ricerca australiano condotto da Graham Gilles del Cancer Council Victoria in Melbourne e pubblicato su BJU International volume 92 pagina 211 è giunto alla conclusione che gli uomini che tra i 20 e i 30 anni hanno avuto 5 o più eiaculazioni per settimana a seguito di masturbazione hanno un terzo di probabilità in meno di contrarre il carcinoma prostatico in età matura o senile. Va sottolineato che la stessa frequenza di eiaculazioni, se associata non a masturbazione individuale ma a rapporti sessuali con partner diversi, aumenta invece il rischio, data la maggiore probabilità di contrarre infezioni virali. Lo studio del team australiano conclude che all'aumentare della frequenza dell'eiaculazione da masturbazione, soprattutto in età adulta, è associata alla diminuzione del rischio di cancro alla prostata e sottolinea che le conseguenze biologiche e molecolari della soppressa o diminuita eiaculazione meritano ulteriori ricerche. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal contesto.